Benvenuti a quest'ultima puntata di Radio Plaza. L'ultima puntata di questo radiogiornale tutto dedicato alla gira zapatista. Siamo veramente commossi di essere arrivati intonsi, sani e salvi alla fine di questo diciamo programma. Diciamo che siamo arrivati interi, poi sani e salvi lo capiremo, i postumi di tutta questa settimana si vedranno. Vi faremo sapere via internet quello che sarà successo alle nostre psicologie. E allora partiamo subito con i titoli del radiogiornale. Il racconto della giornata, voci, suoni e emozioni dall'incontro di oggi con la delegazione zapatista. La voce di chi ci ha messo la faccia, intervista ad Antonella di Nova Coenè, Sciano. E a seguire cosa succederà domani, presentazione del prossimo appuntamento. Spazio alla rubrica di arte e cultura, altre strade, suggestioni e suggerimenti dell'esperto. E infine le favole del subcomandante Marcos, un racconto al giorno prima di dormire. Questa è Radio Plaza, la radio all'improvviso che si spiazza e impazza in piazze pazze. Questa è Radio Plaza in questi giorni in diretta su www.collettivoutopia.noblogs.org. Radio Plaza, trasmissioni ultrafoniche. Questa è Radio Plaza che sta seguendo ancora la gira zapatista in Campania. Musica, letture e voci in comunicazione immediata. Radio Plaza con le voci dal resoconto del giorno appena appena registrate, fresche fresche di registrazione. Cosa vi è parso, com'è andata? La realtà è che la loro realtà costruita in diciamo pochi anni da un punto di vista storico, no? È povera, è giovane, resta quella che è ammirevole, resta quella che è, ma abbiamo pochissimo tempo, non abbiamo più la forza di salvare il pianeta, anche impegnandoci. Purtroppo loro sono ottimisti. È finito il tempo. Loro sono ottimisti, noi siamo molto pessimisti. Il capitalismo si è mangiato il pianeta. Beh, su questo chiudo questo intervento. Grazie. Com'è andata l'incontro? Benissimo. Che cosa, qual è stata la cosa insomma che ha attirato di più l'attenzione, l'energia? Diciamo, come si può dire? Il loro attaccamento per la loro patria. Ah. E com'era l'energia qua nella platea? Un po' freddina. Un po' freddina, ma freddina. Ma per la temperatura che c'è, più che altro. Grazie. Tipo tu invece che ne pensi? Com'è andata la giornata? Allora, io credo che sia stata una cosa veramente formativa dal momento in cui in Europa... Diciamo che la lotta al capitalismo è una cosa, secondo me, un po' utopica, cioè molto lontano effettivamente combatterlo, però avere un punto di vista diverso da persone che veramente ce l'hanno fatta credo che sia una cosa non così lontana. Quindi cosa ti lascia questo incontro di stasera? Aspetta, non me l'aspettavo. Una forte speranza magari di riuscircela a fare davvero. Che bello, grazie mille. E allora com'è andata? Molto interessante. Gli zapatisti ci hanno raccontato la storia dalle origini e sentirla dalla viva voce di chi in qualche modo discende direttamente da questa storia è molto molto più interessante che leggerla o vederla magari insomma in un documentario. Molto bene, mi è piaciuta assai. Alla prossima, allora adelante. Adelante, adelantissimo. Quindi alla c'è fine... un ritorno. Sì. No, cosa sì, perché alla fine loro sono delle persone che ci credono nel la distruzione, diciamo così, del capitalismo, e mi voglio rifare a un detto proprio loro che dicono: noi siamo un esercito di sognatori e per questo siamo invincibili, quindi ce la possiamo fare. Ed è l'esercito dei sognatori e delle sognatrici. Allora va avanti in questa ultima puntata di Radio Plaza. Siamo arrivati al momento in cui intervistiamo chi ci ha messo la faccia, e quindi abbiamo in collegamento, vediamo se funziona il collegamento, con Antonella di Nova Coine. Ciao Antonella. Buonasera Antonella. Bene, benvenuta e grazie per aver insomma, accettato di partecipare a Radio Plaza. Grazie a voi. Antonella, allora raccontaci un po' chi siete, cosa fate, perché avete deciso di sostenere di partecipare, insomma, di sostenere la Gira Zapatista in Campania. Allora, Nova Coine è un'associazione che da moltissimi anni si occupa di integrazione. Noi da quasi 10 anni gestiamo una scuola di italiano totalmente gratuita per stranieri che a seguito dei nostri corsi di italiano possono anche riuscire, ecco, appunto, a prendere il livello A2 di italiano, che serve anche per ottenere il permesso di soggiorno. E insieme con l'associazione Iabassa abbiamo sostenuto la Gira Zapatista in Campania. Siamo proprio riusciti anche ad ospitarli al convento delle suore a Marigliano, e nella giornata di oggi c'è stato un incontro molto bello, un incontro di formazione, e ci hanno parlato appunto di 4 temi fondamentali della loro, insomma, dello zapatismo, ecco. E è stata una giornata molto bella e molto emozionante. Ci hanno raccontato la loro storia, perché hanno deciso di organizzarsi, quindi c'è stata tutta la genealogia a partire dai primi del Novecento con la rivoluzione, e poi a seguito proprio fino ad arrivare alla guerra che c'è stata 27 anni fa. E hanno parlato appunto delle realtà che hanno incontrato qui in Europa e in particolare qui in Campania, dandoci anche molto coraggio in quello che facciamo. C'è stata anzi una prospettiva molto speranzosa. Forse noi ci aspettavamo peggio. Io personalmente mi aspettavo che le loro idee fossero un po', cioè che fossero rimasti, ecco, forse delusi dall'Europa. Invece sono stati molto accoglienti con quelle che sono le nostre forme di lotta. Anzi, il fatto molto bello è che loro ci hanno proprio detto che la nostra lotta è, per forza di cose, diversa dalla loro, perché si svolge in un altro luogo e probabilmente anche proprio in un altro tempo, in un certo senso. Beh sì, in effetti la lotta armata che hanno incominciato gli zapatisti ben 25 anni fa, anche in Italia e in Europa, comunque c'è stato un momento in cui il popolo ha dovuto mettere mano alle armi e alla violenza per estensione durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi un'esperienza, diciamo, da questo punto di vista noi l'abbiamo fatta e abbiamo un po' evoluto il pensiero, e ci sono alcuni gruppi, alcuni pensatori che appunto propongono una grande rivoluzione che sia però culturale, che sia quindi affrontata con altre armi che magari non sono proprio fucili e pistole. Quello che mi veniva da chiedere ad Antonella, che è testimone, diciamo, era presente all'incontro di oggi, volevo capire com'era stata la partecipazione, quanta gente c'era, se era contenta, qualcuno ha dormito oppure hai visto entusiasmo? No, ho visto molto entusiasmo, come a differenza dell'incontro di domenica che si è tenuto al castello dove erano presenti anche gli studenti della scuola di italiano. All'incontro di oggi c'erano persone di varie associazioni, quindi sia di Nova Coine, sia di Abbasta, sia del collettivo Utopia, e mi sono sembrati tutti molto interessati. Ci sono state anche parecchie domande molto interessanti e delle risposte altrettanto interessanti e molto speranzose. Antonella, però così noi sappiamo, ma voi siete ancora lì, vero? Sì, e cosa sta succedendo? Cosa è successo momento, quando noi siamo andati? Facciamo un aggiornamento in diretta. C'è stata la cena, abbiamo mangiato, io al momento mi sono spostata un attimo per il collegamento, insomma. E in questo momento molto bello, anzi ci hanno pure chiesto se potevano registrare, se potevano fare video e foto. Quindi c'è stato un momento di convivialità. Sì, esatto, un bel momento di convivialità. E noi siamo dovuti tornare. Loro vogliano riprendere, fare foto, è un modo anche per testimoniare poi a chi è in Zapat in questo momento, per insomma far vedere quello che stanno vivendo. Quindi escucha, palabra e poi cena, fiesta. Fiesta, musica, fuochi d'artificio. Mica c'erano i fuochi d'artificio. Sì. No, i fuochi d'artificio no, non c'erano. Va bene, grazie mille Antonella, grazie mille per aver partecipato, ci salutiamo qui ancora una volta, questa era Antonella dell'associazione Nova Coinè e grazie ancora. Grazie Antonella, buonanotte. Grazie a voi. Grazie ciao, a voi, alla prossima lotta, ciao. Alla prossima, ciao. Ok, quindi andiamo avanti con il nostro programma Radio Plaza. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori e le nostre radioascoltatrici che questo è un giornale Radio Plaza dedicato alla gira zapatista in Campania. Oggi è l'ultimo appuntamento e siamo commossi, l'ho detto già? Già l'ho detto, sì. Vabbè, presento quindi il prossimo brano perché Radio Plaza propone anche delle chicche musicali. Presentiamo questo brano di un gruppo che nasce nel 2013 in una sagra di paese, il Duo Bucolico, dall'album Bucolicesimo del 2014. Dedichiamo a tutti voi Tempi d'Oro. Radio Plaza. Radio Plaza. Urbino. Sono andato ad abitare con mio cugino, ma nessuno dei due voleva lavorare. Avevamo in testa i rasta tricolore, passavamo il nostro tempo ad ascoltare la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Raga Montefeltro. Ma qualcosa si doveva pur mangiare, così abbiamo fatto piantagione. Ho buttato pochi semi sopra il prato, di gran turco, di tomato e di potato. Ho aspettato. Nel frattempo ho aspettato ed ho cantato la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Siamo entrati dentro casa a cucinare, ma una volta sazio ho visto mio cugino che ballava sul tappeto tibetano. Lui ballava e vorticava come un pazzo e questo pezzo di musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Ma che tristezza, grande amarezza, ma le piogge sopra Urbino sono nocive, sono piene di sostanze radioattive, così l'orto della gioia si è ammalato, sono finiti all'ospedale di Loreto, ci hanno detto ora dovete riposare. Siete vittime di un'intossicazione, ma di notte noi saliamo sul balcone con il nostro mangianastri ad ascoltare la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Forse ne siamo un po' di più. Ma perché tu sei una fricchettona? Ma no, ma sì, boh, a me non piacerebbe lo so. Essere un fricchettone, ma di quelli però. E allora siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Cosa si farà domani? Vabbè, cosa si farà domani, visto che questo è l'ultimo appuntamento di questo giornale Radio Plaza? Che cosa possiamo dire riguardo possiamo a domani? Possiamo dire che intanto la delegazione, una parte della delegazione, la parte delle donne è già partita e dovrebbe essere già arrivata a Palermo. Un'altra parte invece partirà domani per Roma. E poi a Roma ci sarà un grande evento di rincontro di tutti, insomma, le delegazioni in giro per l'Europa. Questo agli inizi di novembre, e vi daremo poi notizie. Seguiteci. E poi noi piangeremo, noi non siamo più abituati adesso a stare senza Radio Plaza la sera. E a proposito di Roma, volevo ricordare a tutti che sabato ci sarà una grande manifestazione di protesta anti G20. Ricordiamo a tutti che si incontrano i, tra virgolette, grandi della terra per discutere e non concludere niente di ambiente per l'ennesima volta. E allora il corteo è previsto tra Piramide e Bocca della Verità, quindi chiunque volesse organizzarsi prenda informazioni in tutti i circuiti antagonisti della penisola italiana. E mentre noi pensiamo a cosa fare da domani sera, che non ci sarà la puntata di Radio Plaza, ascoltiamo insieme dall'album Io Degradabile di Willy Peyote il brano Quando Nessuno Ti Vede. Sì, il singolo di questo rapper italiano Willy Peyote, pubblicato il 6 dicembre 2019 come terzo estratto dal quarto album in studio, Io Degradabile. La cosa che in fondo mi inorgoglisce molto è proprio il fatto di averlo costruito questo team, con i suoi nostri sforzi, è stato figo. Come un armadio di vestiti che non metti più, che non ti cerco e non mi cerchi tu. Il giorno che divento ricco c'ho la servitù, non mi servi più. Cerchiamo tutti un modo per fare a meno degli altri. So che in qualche momento potrei mancarti, ma non ti servirei se esistesse un vibratore che ti ascolta e ti dice che è una stronza la tua collega bionda. Riduttivo, che schifo e offensivo. C'è un bordello con le bambole aperto a Torino. Servi se consumi fin quando sei vivo ed essere soli è un buon incentivo. Io non me la sento, tu non te la senti. Abbiamo avuto solo brutti esempi, ai figli serviranno due genitori presenti e non avrò mai soldi per gli alimenti. sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Da mano a mano che poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Da mano a mano che poi ci avviciniamo, non lo più. Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Stavi sognando ad occhi aperti, meglio se mi avverti. Meglio se lo eviti, lo dicono gli esperti. Meglio se mi lasci stare subito e non ti affezioni. Non ho idea di come funzioni. Con l'età si fa esperienze, con criterio impari a fare gli stessi errori, ma molto meglio. Impari ad essere prima che sei. O fai codardo e lo decide lei. Tanto un giorno viene fuori chi sei veramente. E i vicini a studio aperto salutava sempre. Non sai cosa si nasconde dentro ste famiglie. Col profilo condiviso e sotto un serial killer. Hai pensato a quanto è lunga una vita intera. E noiosa ed inquinante come una crociera. Siete la meglio coppia primi tipo Adamo ed Eva. Finché lei ti lascia citando Joe Evan. Sai cosa pensavo? È tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Da mano a mano che poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Da mano a mano che poi ci avviciniamo, non lo è più. Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Oh mamma mia, sembra una bomba d'orologeria. Se lei leggesse la cronologia. Se vi scambiate il cellulare entrambi, chi siete quando non ci sono gli altri? Mamma mia, sembra una bomba d'orologeria. Tu ti giustifichi e comunque sia, nessuno ti crede. Chi sei davvero quando nessuno ti vede? Sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Ma mano a mano che poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Ma mano a mano che poi ci avviciniamo, non lo è più. Sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Da mano a mano che poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Che è tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Da mano a mano che poi ci avviciniamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? Chi sei? Non ci conosciamo. Ed è arrivato il momento delle suggestioni e dei suggerimenti dell'unico tuttologo che ci piace proprio così. E solo oggi, per l'ultimo appuntamento, non perdetevi lo spazio di arte e cultura a cura di Richard Madoc, Altre strade. Radio Plaza. Buonasera a tutti e a tutti e a tutto e benvenuti finalmente all'ultima puntata della nostra rubrica. È finito questo viaggio settimanale, molto intenso, spero che siate sempre stati e di non avervi annoiato troppo. La puntata di oggi si dedicherà in particolar modo alla resistenza locale, argomento ovviamente molto interessante. Se vi ricordate, lo slogan del G8 di Genova del 2001 era pensa globale, agisci locale. Dopo la repressione terribile, quest'anno proprio è ricorso il ventennale, ci siamo resi conto forse che abbiamo smesso di pensare globale e abbiamo agito solo localmente. Abbiamo ripiegato come movimenti, abdicando anche le nostre responsabilità internazionaliste. Quindi è importante agire locale, ma è importante anche agire globale, perché appunto siamo tutti interconnessi. Le opere culturali che vorrei consigliarvi sono Rapporto Broderick, un fumetto bellissimo, tratto da un libro. Il fumetto è di Larsenet, autore francese, tanto per cambiare, e parla del rapporto su uno straniero che va in un contesto altro e viene visto come nemico. È molto interessante perché ci parla appunto della nostra psicologia, come quanto il locale possa impervertirsi in una comunità chiusa che tende a marginalizzare, ad arroccarsi e ad alzare muri. È un pericolo sempre purtroppo molto vivo e presente, quindi le comunità sempre aperte sono quelle che ci piacciono. Un film molto simile che vi consiglio è Il vento fa il suo giro, parla di queste persone straniere che vanno in un paesino di montagna e per la loro attività legata appunto al latte e all'allevamento di capre e che non vengono affatto ben accolte. Mi ricordo tra l'altro la storia di quell'attivista, la ricorderete, che aveva iniziato questa impresa appunto di latte di capra nel nord Italia, una migrante che purtroppo non ha fatto la fine che si meritava e quindi era bello ricordarlo. Aghitu, sì, così si chiamava, una donna etiope. E trovandoci appunto in quelle terre, come non ricordare il movimento Notav, che ci ricorda quanto sia importante, quanto sia virtuosa, quanto sia necessaria la resistenza locale, ma noi di resistenza locale sappiamo benissimo di cosa parliamo se pensiamo a tutto quello che c'è stato in questi ultimi 10-20 anni anche qui in Campania. Immaginiamo la Terra dei Fuochi, le Mamme Vesuviane, immaginiamo, o meglio, ricordiamo tutto il movimento per l'acqua pubblica, che purtroppo la battaglia di questi civili diritti non si ferma mai, infatti deve essere sempre ripetuta. Locale sì, ma un locale che non perda mai di vista l'altro, che accolga sempre l'altro, che sia sempre inclusivo e includente. Concludo questa rubrica salutandovi con una frase che per me è importantissima, la diceva il buon Pasolini, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario della nascita, e lui diceva: è il possesso culturale del mondo che dà la felicità. Per possesso culturale del mondo probabilmente intendeva la conoscenza e non l'integrazione ma l'inclusione di tutte le visioni, i punti di vista e i valori culturali degli altri introiettati dentro di noi. Tenere conto di tutti fa sì che noi abbiamo una biodiversità non solamente alimentare ma anche culturale, e che è la strada per la cosa più importante che ci sia, che appunto la nostra felicità, non intesa in modo individualistico e quindi garantita da merci, ma intesa come un vivere comunitario, equilibrato, armonico, con rapporti che siano veri, solidi e non strumentali. Su questa vi saluto e alla prossima. questi sono i Nirvana. Questa era Stay Away dall'album Nevermind del 1991. Fino all'ultima nota. Ed ora eccoci, siamo arrivati al momento delle favole della buona lotta. I racconti del subcomandante Marcos dal Chiapas per tutte e tutti. E questa sera ci ascoltiamo dalla voce di Rolando Ravello, Durito e la poltrona del potere. Ricordo a tutti che queste favole sono estrapolate dal libro Fiabe resistenti, racconti del subcomandante Marcos, pubblicato nel 2014. Buon ascolto. Durito e la poltrona del potere. Racconta Durito. Allora, l'atteggiamento che l'essere umano assume di fronte alle poltrone è ciò che lo definisce politicamente. Il rivoluzionario con la maiuscola guarda con disprezzo le poltrone comuni e dice e si dice: non ho tempo per sedermi. La grave missione che la storia con la maiuscola mi ha assegnato mi impedisce di distrarmi in sciocchezze. Così trascorre la vita fino a che si trova di fronte alla poltrona del potere. Butta giù con un colpo d'arma chi ci sta seduto, si siede a sua volta con la fronte aggrottata come se fosse costipato e dice e si dice: la storia con la maiuscola si è compiuta. Tutto, assolutamente tutto assume significato. Io sono seduto sulla poltrona con la maiuscola e sono il culmine dei tempi. E va avanti così fino a che arriva un altro rivoluzionario con la maiuscola, lo butta giù e la storia con la minuscola si ripete. Il ribelle, con la minuscola, invece, quando vede una poltrona comune, la analizza con attenzione, dopodiché prova un'altra poltrona e un'altra ancora, e dopo poco già sembra tutto un gran circo perché sono arrivati altri ribelli con la minuscola e cominciano a far girare il caffè, il tabacco e la parola. Allora, proprio quando tutti cominciano a stare comodi, diventano irrequieti, come se avessero del pepe nel di dietro. E non si sa se per effetto del caffè, del tabacco o della parola. Si alzano tutti quanti e proseguono il loro cammino. E così fino a che trovano altre poltrone comuni e la storia si ripete. C'è solo una variante. Quando il ribelle incappa nella poltrona del potere, con le maiuscole, la guarda attentamente, la analizza, ma invece di sedervisi va a cercare una lima per le unghie e con eroica pazienza lima le gambe della poltrona fino a che, secondo lui, diventano così fragili da rompersi non appena qualcuno si siede, cosa che avviene immediatamente. Ebbene, ci siamo. Bella, bella la favola di stasera. Devo dire, queste favole che abbiamo ascoltato ogni sera, veramente, veramente bellissime. Una più bella di un'altra. Allora siamo ai saluti. Io ho la mia preferita, ma non la dico. No, no, non la dire. Anche perché ce ne sono ancora delle altre nel libro, oltre a quelle poche che abbiamo programmato noi in questa speciale edizione di questo giornale Radio Plaza in compagnia della Akira Zapatista. Non mi ricordo quasi più quando siamo partiti con questo radiogiornale tutte le sere alle 21:30 in racconto di tutto quello che è successo giorno per giorno, voce per voce, suono per suono. Era il lontano maggio 2021, mi sembra, che abbiamo iniziato a picchiettare alle orecchie della gente sulla Gira Zapatista. Vabbè, comunque è stata un'organizzazione che è durata un anno, ci siamo affaticati parecchio, però è stato molto molto bello. Dei momenti di, diciamo, di leggera follia, però un senso di gruppo abbastanza spiccato, almeno durante le prove. Vediamo poi cosa succederà dopo. E sui saluti finali non potevamo che non salutarci con un canto rivoluzionario messicano dei primi anni del XX secolo. Quindi proprio in piena, diciamo, in pieno tema zapatista. E mo però come la mettiamo nome? La mettiamo nome La Adelita. E questo il nome l'hanno trovata e va bene così. Che poi non si sa bene, insomma, chi fosse La Adelita, una ragazza, una infermiera, chissà chi fosse, non si sa chi fosse dedicato a questo brano, cantato da Amparo Ochoa, Los Morales, Mariachi Oro Juvenil, Los Hermanos Rincón, Elba Rodriguez, Patricia Carrión. Dall'album Cantos Ferrocarrileros. Questa è La Delita e questa è Radio Plaza. La prossima Buonanotte. Rivoluzione. Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, en la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería. tan buena mi mujer.